Salva Danaio di Deborah Rosciani. Inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, da Salva Danaio, dalla nostra redazione. Allora, mentre prosegue la polemica sulla riforma della scuola, ne abbiamo parlato anche nel nostro giornale radio, come avete sentito, fra tagli di cattedre e proteste dei precari, gli studenti si preparano a tornare sui banchi. Tra tre giorni si comincia in Trentino Alto Adige e lunedì prossimo poi si entra nel vivo della ripresa con Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Il 14 settembre sarà la volta dell'Emilia Romagna, il 15 settembre della Campania, della Toscana e della Sardegna e poi il 16 settembre in Basilicata e Marche e Sicilia riprendono le scuole, il 20 settembre in Abruzzo, Liguria e Puglia. Su tutte le novità per il mondo della scuola, oggi il Sole 24 Ore pubblica una guida pratica con tutte le novità di quest'anno, in particolare ci sono tutti i dettagli sul nuovo percorso di istruzione superiore e in attesa che suoni la campanella l'allarme caro scuola è già scattato. Sì, lo so, è la solita metafora che usiamo tutti gli anni, ma per i genitori è il momento di passare in cartoleria, muniti di bancomat, a volte anche di banconote di grosso taglio. Bisogna comprare i libri di testo. In teoria dovrebbe essere un salasso contenuto, visto che il Ministero ha fissato dei limiti massimi di spesa e avrebbe addirittura preannunciato in tre anni una riduzione fino al 30% del costo dei testi scolastici. Poi nella pratica si scopre, e le famiglie lo scoprono a proprie spese, che non è sempre così, anzi è raramente così. Le associazioni dei consumatori hanno già calcolato quanto spenderanno in più quest'anno le famiglie. Per Federconsumatori gli aumenti dei prezzi libri registreranno una percentuale media del 5%, pari ad una spesa per libri e dizionari che può variare da 450 a 485-86 euro, con una media dunque di 468 euro per famiglia. Una percentuale simile è stata calcolata anche da un'altra associazione dei consumatori, dall'ADOC. La spesa per i testi sarà per le medie del 5% in più del tetto fissato, il 10% in più al primo anno di liceo, il 5% in più per gli istituti tecnici, e consideriamo che spesso c'è anche la spesa una tantum per il dizionario di italiano, per il dizionario di lingua straniera. Allora, oltre alla guida pratica del Sole 24 Ore, io vi ricordo anche che la prossima settimana Radio 24, in concomitanza con l'avvio in quasi tutta Italia della scuola, organizzerà un Radio Day e anche noi di Salva Danaio ritorneremo sul tema del risparmio per le famiglie che magari devono mandare anche molti figli a scuola. E ricorderete anche che questo è già stato un argomento di una nostra trasmissione in luglio, visto che avevamo promesso che avremmo rifatto un punto della situazione. Eccoci appunto puntuali a monitorare quelle che sono state le scelte delle famiglie, come si sono organizzate con la spesa dei libri di testo, in sostanza qual è stata la corsa alla spesa sostenibile. Abbiamo davvero molti ospiti questa mattina e siccome sono diversi li ho distribuiti nel corso di tutta la trasmissione. Cominceremo la nostra chiacchierata intanto con Davide Guarneri, che abbiamo già avuto anche con noi altre volte, presidente nazionale dell'AGE, l'Associazione Italiana Genitori Onlus. Guarneri, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Un altro ritorno anche per Michele Lessona, consigliere del gruppo educativo dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori. Lessona, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Più tardi avremo con noi di nuovo Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e poi per far dare alle famiglie qualche consiglio pratico su come risparmiare sulla spesa per i libri di testo, abbiamo coinvolto con noi Mauro Zerbini, amministratore delegato di IBS di Maia. Poi vi spiegheremo come è possibile anche trovare online i libri di testo appunto per la scuola. E siccome poi la spesa non è composta solamente dal libro di testo ma c'è anche tutto il corredo scolastico, ci darà qualche indicazione pratica su come spendere bene Ugo Margini, presidente della Federazione Nazionale Cartolai. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666 il numero invece per sempre le vostre domande, ma se non ci volete telefonare potete scriverci a questo numero. Do rapidamente la borsa, la trasmissione stamattina sarà immagino molto vivace dato il numero di ospiti, allora la borsa la faccio rapidamente. anche se vi ho già dato molte anticipazioni nel giornale radio. Quadro positivo, oggi Wall Street chiusa per il Labor Day, per cui l'Europa dovrà viaggiare da sola, ma sta consolidando i rialzi della scorsa settimana. Più 0,46% Parigi, più 0,32% Francoforte, Londra più 0,42%, Milano più 0,32%. Oggi abbiamo avuto anche un bello scatto dell'euro sul dollaro, che è tornato sopra la soglia di 1,29 per ingranare poi una piccola marcia indietro. Adesso siamo a 1,28,84. Oggi su Milano acquisti per STM più 1,71%, perché c'è un grande istituto internazionale che ha previsto vendite in forte aumento per il settore dei semiconduttori quest'anno. Lottomatica più 1,17%, A2A più 0,8%, Prysmian più 0,7% con Geox. Segno meno invece per circa mezzo punto per Buzzi Unicem, Luxottica, meno 0,4% per Banca Monte dei Paschi, meno 0,3% per Tenaris e Fiat. Petrolio fra i $74 di New York e i $76 di Londra. Questi sono i principali temi della seduta. Noi andiamo subito al tema di oggi e ritorniamo a parlare di scuola e della spesa delle famiglie italiane per acquistare i libri di testo. Manca poco all'inizio dell'anno scolastico ed è proprio in questi giorni che si concentrano molti degli acquisti necessari per completare l'equipaggiamento di studenti grandi e piccoli. Le associazioni dei consumatori durante l'estate hanno già lanciato il consueto allarme caro prezzi per i libri di testo, che pesano non poco sulle finanze delle famiglie italiane, in particolare quando si affronta il passaggio alle scuole medie o superiori. Il Ministero, dal canto suo, sottolinea che far risparmiare le famiglie è una priorità e difende le numerose iniziative messe in atto per contenere la spesa delle famiglie, come l'obbligo di mantenere lo stesso libro nel percorso di 5 anni, la promozione di e-book scaricabili da internet e i tetti di spesa per le scelte dei libri da parte degli insegnanti, fissati a €320 per i licei classico e linguistico, €245 per professionale e commerciale, €310 per le magistrali, €305 per liceo scientifico e ITIS, tetti che in particolare per le associazioni dei consumatori non vengono rispettati. L'ADOC, ad esempio, ha previsto un superamento dei tetti di spesa del 5% per medie e istituti tecnici, fino al 10% per i licei. Adusbef e Federconsumatori invece stimano per i libri un rialzo del 5%, con una spesa media di €468. Per risparmiare ci sono le offerte di molte librerie e della grande distribuzione, oppure è possibile acquistare i testi presso i mercatini dell'usato, anche se con la riforma e i nuovi programmi potrebbe essere più difficile trovare l'edizione giusta. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi, oppure 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Davide Guarneri, ovviamente la nostra trasmissione è rivolta alle famiglie e ai consumatori, quindi lei mi farà compagnia per tutta la trasmissione. Papà, tra l'altro, se non ricordo male, di un bel gruppetto di bambini, di ragazzi. Quattro appunto. Mi ricordo che ce l'aveva raccontato anche l'altra volta. Ha comprato tutti i libri di testo? Sì, stanno arrivando. Noi abbiamo la fortuna di avere un'associazione genitori nella nostra provincia molto attiva, che ha stipulato una convenzione con un rivenditore, un grossista, e un po' di sconto almeno l'abbiamo. Quanto riesci a risparmiare? Siamo riusciti a risparmiare circa il 20%. Beh, mi è piaciuto subito raccontare l'esperienza pratica vostra, peraltro non l'avevo neanche concordata, così mi è venuto in mente adesso di farcela raccontare, perché ero assolutamente convinta che quantomeno un'associazione genitori potesse intercettare tutte le strade possibili per risparmiare. E però insomma l'idea è anche che qualche volta, se ci si muove per tempo, Guarneri, un po' di risparmio lo si può trovare. Magari, ecco, il primo consiglio da dare alle famiglie è muoversi per tempo e quindi cercare di avere il prima possibile la lista dei libri di testo. Però questo non è sempre possibile. In che tempi la scuola che si è scelta mette a disposizione il corredo dei libri che vanno acquistati? Allora, i tempi sono la formazione delle classi, quindi indicativamente per il mese di giugno o luglio le classi dovrebbero essere organizzate. E qualche scuola però è ancora in ritardo, perché quest'anno, avendo poi soprattutto sulle superiori delle novità, ci sono alcune difficoltà. Infatti. Pochi minuti fa ho ricevuto una telefonata da una provincia in cui appunto a oggi ancora i genitori non sanno se i loro figli saranno in una sezione o nell'altra, e i libri di testo purtroppo sono diversi dalla sezione A alla sezione B. Effettivamente la questione della riforma della scuola superiore ce l'aveva indicata molto chiaramente anche il preside Rusconi nella puntata che abbiamo organizzato l'altra volta. volta questa riforma ha comportato l'introduzione di materie nuove nei primi anni appunto delle scuole superiori, per cui libri in più e naturalmente quindi costi che si aggiungono. Detto questo, però, quest'anno, comunque negli ultimi anni, ci saremmo aspettati anche una novità di risparmio relativa al fatto che c'è stata l'introduzione dell'obbligo di non poter cambiare libri di testo. Io la dico in maniera molto molto semplice per poi farcela spiegare meglio dai nostri ospiti, appunto l'obbligo di mantenere lo stesso libro nel percorso di 5 anni di scuola superiore. Michele Lessona, vengo subito da lei, all'Associazione Italiana Editori, perché noi esattamente come poi si traduce questa novità nelle abitudini di acquisto o nell'obbligo di acquisto da parte delle famiglie dei libri di testo non l'abbiamo ben capita. Per esempio, un libro di storia, quello che oggi si acquista per il primo anno di un liceo, significa che per i prossimi 4 anni le nuove prime liceo dovranno acquistare lo stesso libro? Significa che per i prossimi 6 anni la prima liceo dovrà adottare il libro che ha adottato quest'anno. In particolare poi nella questione va detto che i curricula, diciamo, di storia della prima superiore sono stati resi noti quando le adozioni erano praticamente già state fatte. Sì. Cioè, da questo punto di vista c'è stato un ritardo intollerabile, credo, sia dal punto di vista delle famiglie sia anche dal punto di vista di chi deve realizzare questi prodotti qui. Quindi gli editori hanno un po' ragionato, tra virgolette, al buio sulla base di voci di corridoio per riuscire ad azzeccare quella che poi è risultata essere la periodizzazione nuova. Quindi diciamo che almeno se le famiglie si aspettano un risparmio con l'introduzione di questo punto specifico delle riforme recenti, dovrà aspettare i prossimi anni, non è questo l'anno giusto. Detto questo, Lisson, anche lei è papà di figli in età scolare? Le mie figlie hanno adesso superato quell'età lì in quanto sono all'università. Entrambe, però è un tema che l'ha sensibilizzata notevolmente sia per lavoro che per questioni personali, insomma, negli ultimi anni. Ecco. Sono dalla scuola primaria, quella che una volta si chiamava elementare, alla ex media, eccetera, insomma. Ecco, senta, questa questione dei tetti di spesa, anche questa è un aspetto che va chiarito alle famiglie. Tra l'altro c'è stata anche una iniziativa molto originale del provveditore agli studi della città di Milano, che ha chiamato all'appello tutte le scuole che questi tetti l'avevano sforati, chiedendo delle giustificazioni molto precise, perché vengono fissati dei tetti che possono essere sforati per circa il 10% solo per specifiche esigenze didattiche. La norma recita esattamente così, poi però di fatto, a quanto pare, molto spesso lo sforamento non avviene esattamente per rispondere a queste esigenze. In sostanza, su questo punto, dottor Lessona, che cosa si può dire alle famiglie che effettivamente, insomma, sono alle prese con dei bilanci molto stretti e cercano di barcamenarsi anche nella conoscenza di nuove norme, anche se non so se sempre debba essere anche corretto che facciano così, insomma? Ma innanzitutto vorrei dire che questi sono dati noti sia dall'Istat sia al Ministero, con il quale noi condividiamo tutte le informazioni relative ai libri di testo. Quest'anno, come negli anni precedenti, l'aumento non è quello che diceva Adusbef o Federconsumatori del 5%, ma è dell'1, mediamente. È chiaro che ci può essere un libro che aumenta del 2,50, un libro che resta con un prezzo inalterato. C'è stata una bellissima ricerca, e la cito perché è fatta da un libraio, da Marco Bernardi della libreria La Bassanese, che ha esaminato in modo molto puntuale, tra l'altro si trova su internet questa ricerca all'indirizzo redazione.bassanonet.it, che dà conto di come in effetti quello che noi diciamo da anni sia suffragato poi da dati oggettivi, ovvero i libri non solo aumentano dell'1, ma anzi le nuove edizioni, proprio perché presentano anche un utilizzo del materiale sul web, hanno avuto una diminuzione reale del prezzo al pubblico. Detto ciò, è chiaro che la legge, o meglio le circolari, consentono lo sforamento del tetto del 10% fino a un massimo del 10% per motivate esigenze didattiche. Questo è, da un punto di vista formale e amministrativo, un atto che deve compiere il collegio dei docenti. Esattamente. E quindi non compete agli editori. No, infatti. No, e quindi secondo noi bene ha fatto anche questo provveditore a sollecitare delle spiegazioni. Salvadanaio ritorna sulla scuola, d'altronde entro qualche giorno tutte le regioni riaprono le scuole per l'appunto, e quindi gli studenti si preparano a tornare sui banchi, le famiglie sono pronte a tirar fuori bancomat o, come mi suggeriva la mia collaboratrice Gaia Romani, banconote di grosso taglio per comprare i libri di testo. Siamo ritornati un po' ad esplorare le scelte che sono naturalmente obbligate per le famiglie su come così risparmiare anche un po' attrezzandosi al meglio con il corredo scolastico, ma soprattutto appunto stamattina parliamo di libri, e poi ci faremo dare anche da un esperto qualche indicazione per poter risparmiare su tutto il resto, e quindi insomma cartelle, astucci, matite e quant'altro. Vi ricordo la guida pratica in edicola oggi con il Sole 24 Ore, le novità a scuola, istruzioni per l'uso, la campanella suona, l'ora della riforma, e questa riguarda soprattutto il nuovo percorso di istruzione superiore. Avete anche in questo caso la possibilità di aderire o comunque partecipare al forum online del Sole 24 Ore collegandovi sul sito ilsole24ore.com/scuola e seguire tutte le indicazioni riportate per fare, se volete, delle domande sui temi trattati nella guida agli esperti che sono stati coinvolti. Noi oggi invece ci soffermiamo sui libri. Do il bentornato al preside Rusconi, Mario Rusconi, che è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Preside, buongiorno. Buongiorno anche a voi tutti. E allora, insomma, siamo ritornati a trattare questo argomento. Lei ci ha fatto compagnia quasi sempre in questi anni, ogni qualvolta abbiamo voluto esplorare un po' le vie di risparmio per le famiglie, e la spesa è importante, quella che deve essere sostenuta, soprattutto alla luce di questa riforma, di cui noi non parliamo perché la nostra trasmissione non parla delle novità nella scuola in termini di, come dire, taglio didattico e quant'altro. E però devo dire che questa è pesata, preside, no? Anche lei ce la richiamava, ce la ricordava nella scorsa puntata. Quanta spesa in più secondo lei implica questa riforma in termini di nuovi testi da adottare nella scuola superiore, per il primo anno soprattutto? Ma probabilmente ci sarà una differenza di un 70-100 euro, in quanto, per esempio, faccio l'esempio del liceo scientifico: fin dal primo anno i ragazzi avranno fisica e chimica che in precedenza non c'erano, quindi avranno dei volumi in più che poi non potranno essere adoperati nel prosieguo del triennio, in quanto poi nel triennio cambia di nuovo l'impostazione della materia. Preside, non so se l'aveva seguita, Repubblica nei giorni scorsi ha riportato la vicenda di Milano, dove il provveditore agli studi Giuliana Pupazzoni ha rivolto un vero e proprio ultimatum ai dirigenti scolastici chiedendo: entro il 10 settembre dovete giustificare gli sforamenti al tetto di spesa. Quest'anno riconosce che le materie sono aumentate, ma superare del 10% i tetti fissati dal Ministero non è giustificabile perché, ha detto esplicitamente inviando una lettera ai presidi, bisogna dare priorità a risparmio delle famiglie. È tanto difficile rispettare questi tetti? Ma diciamo così, non è difficilissimo. Faccio l'esempio, senza nessuna forma di autoglorificazione, del liceo da me diretto. Io ho detto ai miei insegnanti: guardate, quello che ci manda il Ministero è un'indicazione, tra l'altro non è un diktat, perché tra l'altro le scuole possono purtroppo benissimo buggerarsene di queste indicazioni, non è una legge dello Stato, è un, come dire, a moral suasion fatta dal nostro Ministero. Siccome io però la faccio mia, insomma, ho cercato di fare in modo di dire agli insegnanti di non sforare assolutamente quel tetto, e non è stato sforato. Il fatto di dare giustificazione da parte del provveditore, del direttore dell'ufficio scolastico provinciale di Milano, mi sembra più un atto, diciamo così, dovuto come funzionario dello Stato, che qualche cosa che possa ottenere un qualche effetto, perché nessuna scuola dirà: abbiamo sforato di 50-100 euro semplicemente perché volevamo un po' così essere zuzzerelloni. Daranno delle motivazioni più o meno valide, e non ci sono strumenti per diciamo così bloccare poi queste adozioni. Però insomma stupisce sempre il fatto che ci sia la polemica per lo sforamento, e in ogni caso, se anche non c'è lo sforamento, si viaggia sempre sui limiti di spesa. Certo, come dire, individuare dei libri di testo che possano comportare un risparmio significativo per le famiglie è sempre una strada molto complessa, preside. Io so quello che lei sostiene sempre sull'importanza di avere un libro di testo che ti può accompagnare per tutta la vita. Detto questo, poi però, come lei sa, le famiglie, soprattutto quelle numerose, affrontano ben altri problemi, che sono quelli del bilancio familiare e dell'arrivare alla quarta settimana del mese. A settembre ci si arriva con grande fatica se si devono sostenere questi costi. Lei che ne dice? Sì, però se il nostro, diciamo, ministero, le nostre regioni, certo, soprattutto, volessero provare a risolvere il problema, dovrebbero fare quello che ha fatto un collega nostro in Sicilia, niente meno, quindi una regione non particolarmente ricca, cioè il cosiddetto comodato d'uso, che adesso sarà ancora più possibile in quanto i debiti devono rimanere tali per 5 anni. Bisogna avere la forza però iniziale di poter investire dai 50 ai 100.000 euro in libri di testo che vengono poi dati agli studenti, che gli studenti poi a fine anno devono restituire in tonsi, poi... naturalmente. Questo però questo è l'unico sistema, altrimenti certo, mettere il blocco è anche un po' un non senso, perché vuol dire andare contro le esigenze delle aziende. Se l'azienda rinnova il contratto dei tipografi, oppure la carta costa di più, l'inchiostro costa di più, che cosa fanno? Devono per forza aumentare. Io entro anche nella logica dell'azienda. L'azienda non è che può produrre i libri gratuitamente, insomma. Quindi l'unico sistema è il comodato d'uso, le biblioteche di classe. Allora, tra l'altro, esperienza che a quanto pare, secondo quello che ci vorrebbe raccontare Stefano da Genova, è ampiamente sfruttata in Germania. Stefano, buongiorno, con un buon grado di successo, immagino, mi pare naturale. Sì, Stefano, buongiorno. Buongiorno, io ho amici che vivono in Germania. Da dove ci sta chiamando, Stefano, che veramente mi sembrano le catacombe etrusche? No, sono fermo in macchina. Benissimo, grazie. Dicevo, io ho amici che abitano in Germania, hanno vissuto in Italia fino a 2 anni fa, le loro figlie frequentano il primo e il secondo anno delle superiori, ma questo non solo nella loro scuola, in tutte le scuole hanno libri da accumulato d'uso dal primo anno di istruzione fino all'ultimo anno. Quindi io ritengo che tutto questo discorso che viene fatto sui vari modi in cui si può arrivare a una diminuzione di spesa siano dei palliativi a fronte di un problema del genere che ha affrontato il Presti adesso. Stefano, la ringrazio. E qua il pubblico, in sostanza, ribadiamo un po' sempre gli stessi temi, che dovrebbe sobbarcarsi di gran parte di questo problema, ma anche a luce un po' di tutte le polemiche che ci sono state sui tagli nel mondo della scuola e i risparmi che devono essere fatti in quell'ambito, chissà se si potrà mai percorrere la strada del comodato d'uso. Guarneri, come associazione dei genitori, so che questo è un vostro grande cavallo di battaglia, questa proposta. A che punto è? A chi l'avete fatta? Ci sono delle scuole che si organizzano con questa modalità? Io vorrei ricordare che la circolare ministeriale 16 del 2009 precisa proprio che le istituzioni scolastiche possono concedere incomodato d'uso gratuito i libri di testo. Oltre a ciò si aggiunge che c'è anche la modalità del noleggio dei libri, che consentirebbe anche di coprire le spese in parte, almeno l'usura dei libri, eccetera eccetera. Tutto ciò non è un rapporto di tipo commerciale, perché per la scuola non c'è lucro. Perché appunto si tratta appunto di un noleggio comunque solo per coprire le spese. E l'investimento iniziale è possibile, qui aggiungerei a quanto condivido innanzitutto del professor Rusconi, a quanto diceva lui, è possibile quando insieme alla scuola lavorano i genitori, per cui l'associazionismo ai genitori è una risorsa insostituibile, direi, in questo. E abbiamo esperienze un po' in giro per l'Italia positive. Effettivamente senso. Io questo magari adesso forse non è proprio, come dire, esattamente un tema di risparmio, ma il tema della partecipazione al mondo della scuola dei propri figli è fondamentale, perché noi solleviamo ovviamente il problema su quanto costano per esempio i libri, ovviamente solamente in questo momento dell'anno, perché chiaramente anche per come dire questione di cronaca è il momento in cui inevitabilmente balza più all'occhio. Però se ci fosse un percorso condiviso tutto l'anno tra scuola e genitori, Guarneri, lei dice che si potrebbe anche evitare di dare tutta questa risonanza al problema in questo momento dell'anno, solo a settembre, quando la spesa sicuramente è... Vorrei anche ricordare che i genitori sono nei consigli di classe e di istituto, e quindi certo, i tetti di spesa possono essere già lì visti, quindi ben vengano i dirigenti scolastici diligenti e infatti è come se in queste scuole di Milano effettivamente un monitoraggio non fosse stato fatto, perché magari se ci fossero stati delle famiglie molto come dire attente alle scelte delle scuole, magari anche questa questione dell'iniziativa intrapresa dalle provvisorie degli studi di Milano non sarebbe emersa. Sì, anche se dobbiamo purtroppo notare che spesso l'adozione del libro di testo arriva negli ultimi giorni possibili, come abbiamo già detto prima, è anche difficile poter effettuare un controllo. Un altro controllo mi sembra importante poi è l'effettivo utilizzo di questi libri di testo, perché a noi risulta che spesso i libri siano acquistati e poi siano intonsi, non perché non li hanno usati gli studenti, capita anche questo, ma perché magari l'insegnante non l'ha mai aperto. Guarneri, da quanti anni stiamo parlando sempre delle stesse cose? Temo da molti. Ecco. E, ma, direi che poi bisognerebbe aggiungere come novità almeno due elementi. Uno, che oggi c'è un obbligo di istruzione fino ai 16 anni, per cui lo Stato assicura i libri fino ai 14, ci sono questi due anni obbligatori, comunque completamente a carico delle famiglie. La seconda riflessione, proprio di tipo economico e fiscale, è perché non tentare la via della detraibilità di queste spese. Cioè, vogliamo che le spese per l'educazione e la cura dei figli sostenute dalle famiglie possano davvero essere detraibili e quindi anche sostenute in modo ragionevole dalle famiglie. Guarneri, noi riprendiamo di nuovo molto volentieri le sue sollecitazioni con la speranza che ci sia maggiore sensibilità intorno a tutto questo. Eccoci ritrovati in diretta. Massimo, da Grazia Dei, si chiama così la località dove si trova in questo momento? No, è Brindisi, esattamente da Brindisi. Ah, proprio Brindisi, non ho capito per quale motivo mi abbiano scritto. Vabbè, non importa, in ogni caso è di Brindisi. Se non ho capito male, lei ci vuole raccontare, a meno che non abbiano fatto più scuole, l'esperienza del liceo scientifico Ettore Majorana. Sì, è un industriale, un ITIS. Sì. Uh-huh. Allora, io ho la figlia che si è iscritta per il primo anno. E la scuola mi ha chiesto 35 euro per tutti i libri, di tutte le materie. In pratica i libri sono stati redatti dai professori stessi, stampati in scuola, il preside ha acquistato tutte le attrezzature necessarie e poi anche gli stessi libri sono stati inseriti in rete, dove almeno presumo che siano circa una decina di scuole in tutta Italia abbiano appreso, prelevato tutto il materiale per poter stampare anche loro stessi. E infatti l'iniziativa sono stati stampati anche in scuola stessa i libri per il nord, dove non erano attrezzati ancora per, addirittura sono stati premiati anche dal Presidente della Repubblica con la medaglia. Infatti mi pare che questa sia l'iniziativa che si chiama Book in Progress, ripeto, replicata anche a Busto Arsizio, all'Istituto Tosi, al Pacioli di Crema, e quindi però io mi chiedo agli editori cosa pensino di tutto questo. Lessona. Ma indubbiamente un'iniziativa che, come puoi immaginare, è ben nota agli editori. Io personalmente ho anche visionato alcuni di questi testi, nulla da dire, nel senso che mi sembrano dei testi che poi ricalcano da un punto di vista grafico ed aspetto i testi dell'inizio del Novecento, sono dei testi molto in nero, quasi privi di illustrazioni, perché evidentemente nella didattica rimanderanno a utilizzo di tecnologie che auguriamoci che le scuole possano avere, perché dal punto di vista tecnologico oggi le scuole italiane sono ancora, non dico alla preistoria, ma forse ancora un po' alla protostoria. Infatti, no, e poi comunque è un impegno enorme anche per gli insegnanti, e non tutti sono così collaborativi, anche se sono tutti assolutamente, io credo anche molti, siccome sono anche tutti quanti genitori, sono indubbiamente tutti molto sensibili, però richiede anche uno sforzo partecipativo e collaborativo tra loro enorme, e bisogna dirlo anche questo molto chiaramente, non tutti se la sentono di imbarcarsi anche in un lavoro di questo genere. Però Guarneri, volevo tornare ai genitori, perché noi comunque siamo qui a disposizione delle famiglie, sono sicuramente delle iniziative lodevoli, secondo lei quanto facilmente replicabili anche altrove? Ma intanto vedo che, so che questa esperienza è già presente in 14 istituti 14, in Italia, perfetto. E mi pare una buona indicazione. Nessuno può vietare la libertà didattica, mi pare che faccia parte proprio di quella autonomia di ricerca propria di ogni scuola, e può contribuire a far crescere la qualità dell'insegnamento e la cooperazione anche all'interno dell'istituto, potrebbero partecipare genitori, studenti anche nell'aspetto tecnico, tecnologico e così via. Chiaramente per ora non penso sia riproducibile in tutta Italia, ma è un'esperienza sicuramente da sostenere, da seguire. Infatti, Roberto da Crema, buongiorno. Lei per caso è coinvolto nell'iniziativa del Pacioli? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Sì, io sono un insegnante del Pacioli. Ecco, perfetto. Non sapevo che erano già stati segnalati. Guardi, è tutto molto casuale, infatti. E quindi, insomma, ci spiega esattamente... No, io... Segnalavo soltanto appunto nel mio istituto, che non è un istituto piccolo, perché è l'istituto più grande della provincia di Cremona, da 1600 alunni. Parlo a nome, diciamo, della presidenza, pur non avendone diritto, diciamo, per tutte le informazioni in più potreste avere sicuramente maggiori ragguagli dalla presidenza. Però ecco, è un'esperienza nuova per quello che anche noi insegnanti, soprattutto, è un'esperienza nuova, perché inizia ora, inizia con quest'anno qua. I ragazzi saranno di prima, delle prime, tutti gli alunni delle prime saranno muniti, dovranno essere muniti di un netbook sul quale verranno già caricati un certo numero di libri di testo, e per cui l'ausilio didattico diventerà il computer. Certo, senta Roberto, la sento molto male, voglio solo chiederle, me lo deve dire in 30 secondi se ce la fa, quanto sforzo è comportato per voi insegnanti elaborare anche questi testi da poi mettere a disposizione delle famiglie a costi così contenuti? Allora, diciamo che abbiamo la fortuna, proprio perché nella nostra scuola c'è il corso di informatica, quindi molti insegnanti si sono dati da fare, è stato sicuramente un impegno molto molto grosso. Io ne ho usufruito, ecco, diciamo, da parte mia l'impegno verrà ora, perché sicuramente ci sarà da modificare la parte di didattica. Ecco, certo, però insomma si può fare. Di preparazione. Allora, i motivi sono tanti e sono forti, perché sicuramente cercare di trovare dei sistemi per far risparmiare le famiglie, per non incidere più di tanto, la scuola è una spesa comunque importante nel capitolo familiare, certo. Quindi sicuramente è un'iniziativa che il preside ha ponderato bene e noi lo seguiamo. Benissimo, grazie, complimenti, naturalmente buon lavoro, mi rimangono pochissimi minuti di tempo, ancora suggerimenti alle famiglie. Saluto Mauro Zerbini, amministratore delegato di IBS di Maia, perché dall'anno scorso la risposta al caro libri è sbarcata in rete. E allora, che cosa avete pensato? Zerbini, ce lo racconti subito concretamente. Sì, buongiorno. Noi abbiamo realizzato un sito che si chiama libraccio.it, che consente di consultare tutte le adozioni dei libri scolastici delle scuole medie, inferiori e superiori d'Italia, e che offre, oltre all'acquisto online dei libri nuovi, anche la possibilità di acquistarli usati per più di metà, diciamo, dei prodotti in commercio. Tra l'altro con una modalità, se non ricordo male, molto semplice: non appena si è capito la classe nella quale il nostro ragazzo, nostro figlio, nostra figlia è capitato, si può utilizzare il vostro database inserendo queste informazioni e abbiamo già conoscenza del corredo dei libri di testo di cui necessitiamo, di cui necessita la famiglia? Sì, esattamente, segnaliamo anche quali libri il ragazzo dovrebbe già avere in uso o quali invece debba acquistare, quali sono testi solamente consigliati e quali invece siano realmente adottati. Benissimo, ci ridà di nuovo l'indirizzo per poter fruire, se ci interessa, di questo servizio, sì, Zerbini? www.libraccio.it. Tra l'altro, voi siete partiti l'anno scorso, quante famiglie avete notato hanno approfittato di questa opportunità e soprattutto quanto insomma interessa anche il mercato dell'usato, perché non è sempre detto che da un anno all'altro, perché anche questo transita sul vostro database? Ma diciamo le famiglie che hanno già ordinato da noi sono molte decine di migliaia, sicuramente. E notiamo che non vi è, diciamo, la famiglia che acquista tutto nuovo o tutto usato, diciamo. Ci sembra che probabilmente le famiglie tendano certi libri comunque a desiderarli nuovi. Ah, ecco. Magari per le materie che ritengono più importanti a seconda anche dei loro interessi, no? E poi completino l'ordine invece con una buona quantità anche di usato, per comunque risparmiare delle cifre significative. L'usato noi lo vendiamo col 40% di sconto sul prezzo di copertina. Benissimo, grazie a Mauro Zerbini. L'ultima telefonata, l'ultimo contributo lo lascio fare ad Ugo Margini, presidente della Federazione Nazionale Cartolai, perché insomma non sono solo i libri a pesare sull'economia delle famiglie, i rincari colpiscono anche quaderni, astucci, diari, zaini, soprattutto tutto il materiale griffato, ma i prezzi scendono se si optano per i prodotti più semplici. Il vostro Scuola Kit, presidente, quest'anno come funziona? Come tutti, buongiorno a tutti. Rapidissimo, deve rispondermi in un minuto, grazie. Semplicemente ci sono migliaia di cartolerie che mettono a disposizione un kit fatto da zaino, astuccio, quaderni, diario, tutto quello che serve per cominciare la scuola a 19 euro. E 90. Io la sento malissimo, purtroppo, guardi, mi dispiace anche che l'abbiamo tenuta in ballo negli ultimi minuti e poi con un collegamento telefonico che è pessimo, ma lo ricordo io che ce ne sono tre tipi, uno per la prima e la seconda elementare, uno per la terza, quarta e quinta elementare e poi uno per le medie. Allora, siccome margini, noi settimana prossima rifacciamo una puntata sul caro scuola, io mi impegno già da adesso a reinvitarla di nuovo, così magari avremo la sua disponibilità dall'inizio della trasmissione e potremo ricordare il kit scuola, anche se cominciando già la scuola da lunedì temo che molte famiglie avranno già comprato tutto quello che è necessario, per cui magari questa indicazione non sarà utile. L'importante è che l'abbiamo già data oggi. 10 secondi di tempo, voglio concludere la trasmissione con il solito Davide Guarneri, presidente dell'associazione genitori. Abbiamo appreso qualche lezione utile da questa puntata, abbiamo raccontato tantissime cose, ma almeno qualche informazione pratica e concreta speriamo di averla data, Guarneri. Sì, sicuramente penso importante il fatto che genitori, scuola e tutte le altre realtà che sono interessate all'educazione si mettano insieme. Insieme si possono fare acquisti collettivi, si possono trovare le modalità del noleggio, del comodato e così via. Benissimo. Quindi penso che ci sia da lavorare e si possono anche risolvere concretamente i problemi. Grazie, grazie a tutti. Salvadanaio torna domani. Buona giornata.